le 7 e una manciata di secondi. Oggi direi che è mercoledì 13 di febbraio 2008, l'anno della svolta. Vi parliamo dagli studi di Rock FM, siti in via Locatelli 1, 20124, Milano. C'è l'Ariele a augurarvi una buona giornata, messo malino, come sempre, a quest'ora della giornata, ma non peggio di voi, perché adesso guardatevi pure nello specchietto retrovisore, datevi un'occhiatina, voi che siete già in giro, eh? Ma il comune mezzo gaudio. Pane, burro e rock and roll. Vado a prendere Mister Trombetta, eh? La tua colazione rock. Buona giornata, Spadino. Pane, burro e rock and roll. Arriverà anche Roberto Fricantoni e allora sì che la squadra sarà completa. Pane, burro e rock and roll. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Perché conviene e perché fa bene, la colazione che crea assuefazione. Bentornati, bentrovati sulle nostre frequenze, agli amici e alle amiche della primissima mezz'ora di Pane, Burro, Rock and Roll. Che orgoglio, che vanto. I miei radioascoltatori e le mie radioascoltatrici preferite. Questo è il tormentone degli ultimi giorni. Andiamo ad affrontare la puntata 182, che da scaletta sarà ricca, colma, stracolma. Soprattutto per voi della prima ora andremo a riproporre, grazie alle abilità tecnocratiche del nostro regista Spadino, la seconda puntata di Zorrock. Oggi c'è replica, oggi giornata di replica per la prima ora, secondo appuntamento con la nostra radionovela che sta facendo tanto parlare di sé. E il primo ringraziamento va a Leti, che spero sia già all'ascolto, spero sia uscita dall'ascensore di Rock FM, una delle amiche che spesso e volentieri ci porta la colazione, quella vera, perché noi facciamo pane, burro, rock and roll, lei ci porta quella vera. Brava Leti, hai fatto bene a chiedere a Garavelli di ripensarci, brava. E col vassoio di brioche fumanti in mano deve ripensarci per forza. Eh sì, perché sembra non voglia fare più Zorro, ma tranquilli, lo stiamo lavorando ai fianchi, prima o poi lo convinciamo. 7:03 primi, la puntata inizia così. Inizia con la voce bassa, la voce cavernosa di Johnny Cash. Questo è Ring of Fire. Love, hey, is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. Fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire. Ring of Fire, Johnny Cash. Che inizione, mi piace questo inizio con Johnny Cash. Niente male. Lampione crepuscolare, bello lì, bello acceso in fronte al nostro capocchione. Queste sono cose che capite solo voi della diretta, che poi molti ascoltano, gli amici che ascoltano in fuorisincro col sito oppure con il nostro MySpace, non apprezzano queste cose, perché il lampione crepuscolare credo non sappiano nemmeno che cos'è. Invece noi adesso sì che lo sappiamo, Il nostro faro che illumina la strada così, nelle prime luci del mattino, di una nuova sfida, un nuovo mercoledì da vivere insieme, ovviamente da leoni. Per viverlo insieme io quasi quasi, da in maniera manieristica, vi ricordo le linee di contatto, un numero di SMS che è il 335-100-7777 e una classica casella di posta elettronica che è ariel@radiorockfm.com. Ricordo sempre che la mail a quest'ora non è gettonatissima, perché non, per fortuna non siete ancora di fronte al vostro computer acceso, connesso e quant'altro, però state prendendo il vizio di scrivere. Poi nel corso della giornata fa piacere trovarvi così, appena apriamo il computer trovare i vostri messaggi, carino così. Ce n'era uno particolare e dopo sicuramente devo salutare l'amico che ce lo scriveva. Non capisco perché VSM, no, ma non voglio mettere in piedi sta polemica adesso, la faccio tra un po', se ci attacco con le polemiche adesso non ne affamo, Andiamo con il Lynyrd Skynyrd, che è meglio per tutti i sudisti rocchettari all'ascolto. Questa è Saturday Night Special. All right. Yeah. gnafo. Ah. No, gnafo. No. Gnafo. Non puoi permettere che il mercoledì ti deprima in questo modo. Sì, è un 13 di febbraio che sento pesante sulle spalle. Sarà forse il 13, sarà mercoledì o sarà febbraio? Sarà che secondo me con un po' di poesia potrebbe passarmi tutto. La ringrazio, la ringrazio, perché io ho giusto preparato qui una quartina. Sì, ode all'almanacco. Di mercoledì. Fantastico, del mercoledì, fantastico. Esatto. La ringrazio. Al mercoledì è ancora piuttosto lontana l'agognata fine settimana, ma tu continua col bislacco, ma fortissimo, almanacco. Mannaggia, io veramente non ho parole. Eccomi pronto per l'almanacco del 13 di febbraio. Il 13 porterà bene. Coraggio, radioascoltatori e radioascoltatrici. 1866, una notizia che non potevamo evitare. Jesse James rapina la sua prima banca. Sono cose che vanno ricordate, certo. Che non si possono dimenticare. Certo. Mentre vorrei aggiungere che nel 1894, certo, Auguste e Louis Lumière, i fratelli Lumière, i famosi fratelli Lumière, brevettano le cinematograph. Hai capito? Che era una combinazione tra cineprese e proiettore. Come ricordava anche lo stesso nome, cinematograph. Vabbè. 1959, questa gliela presento io, il 13 di febbraio, alta, bionda, fisico mozzafiato e da 16 anni. Aia. La ideata Ruth Handler, e stiamo parlando di Barbie, che diventerà la bambola più diffusa del mondo. E qui ho un commento, laddove è dimostrato quello che Pane, Burro e Rock'n'Roll ha sempre sostenuto. Ovvero? Le invenzioni cosiddette minori, certo, a volte sono le più straordinarie. La nicchia vincerà. Insomma, quella che potrebbe sembrare un'ideuzza, certo, ha fatto sì che l'autrice Ruth Handler diventasse multimiliardaria, con grande soddisfazione. Farei allora bello anche gli auguri di compleanno a Barbie, che a sto punto oggi mi compie 49 anni, diventata una signora. Chiudiamo invece con una brutta notizia, perché era il 2000 e oggi l'ultima striscia dei Peanuts appare sui quotidiani il giorno dopo la morte di Charles Schulz, ideatore e inventore dei Peanuts, delle noccioline, delle strisce, e quindi faceva sul momento. Esatto, le faceva espresso, cioè lui creava, Schulz, creava le sue creature, creava i suoi personaggi e le sue strisce giorno per giorno. Un po' come Frick fa gli almanacchi, le ode agli almanacchi. Grazie, sì. Il paragone mi lusinga. Prego, un piacere. how years ago, in days of old, when magic filled the air. Just in the darkest depths of Mordor, I met a girl so fair. But Gollum at the evil wall. Zeppelin, beh, normali, le Zeppelin, quelli classici, so che voi palati fini ormai siete abituati a nuove versioni delle Zeppelin, ma è sempre un gusto ascoltarseli originali. Ciao, sono l'Ariele, buona giornata, buon mercoledì. Massima solidarietà agli ascoltatori livornesi, perché mi segnalano che questa mattina il lampione crepuscolare si è già spento. Vuol dire che lì si sta già arrivando alla primavera, sembra. Ciao Lore 66, che mi segnala anche una contadina tutta rocker. Ci vorrebbe una strombazzata. Caro Lore, sai che noi alle contadine, radioascoltatrici, una strombazzata veramente non si nega. Mai, mai, mai, mai, mai. Auguri di... Oh ragazzi, sta cosa degli auguri di compleanno sarà provinciale. Ma a me mi piglia bene, non so perché... Quindi prima che arrivi a scuola oggi facciamo gli auguri ad Alice, 19enne, e allora ringraziamo Guido per la segnalazione. Allora, avevo una mail, ho una mail, devo fare un saluto a Diego e scrive a daria@radiorockfm.com. Ciao, sono un radioascoltatore frazionato. In questo momento non vi sto ascoltando, vi ho lasciato la scorsa mattina alle 7:30 con un pensiero tremendo. Domenica sera tornavo da un locale dove c'erano dei volantini promozionali di Rock FM. E anche se non mi pagate, ne ho presi una barcata e ho volantinato nottetempo nel mio condominio. Intanto bravo, 2 punti per la tua patente da vero rocker. Stamattina tra me e me pensavo, chissà se qualcuno tra i pensionati e o psicopatici del mio palazzo ha trovato il volantino e sta ascoltando. Dopodiché, nella diretta siete partiti con i Led Zeppelin col kazoo e il pensiero si è concluso. Caspita, che figura mi fanno fare quelli di Rock FM. Continuate così, ragazzacci di strada, ciao Diego. Ciao Diego. Guarda che io saluto Diego e tutti i pensionati e o psicopatici del suo condominio. Nel caso abbiate preso quel volantino che avete trovato nella casetta delle poste, è stato Diego, ringraziatelo. Questa è Rock FM, una radio che può voler bene anche a voi. Sì, non sentitevi esclusi. Voi che amate ascoltare la radio a quest'ora della giornata, non troverete così tanto affetto dalle altre parti. Gli altri così vi fanno sentire della musica così presa a caso, molto gettonata. Noi vi vogliamo bene invece proprio, Dichiarazione d'amore che non fa mai male ai dati d'ascolto. Allora, io proseguirei con la buona musica, che forse è meglio anche perché c'è una novità. Beh, ve le ho promesse di novità nella puntata in questa puntata 182. Fate attenzione, dopo è festa della PFM, potrebbe esserci uno spot interessante per promozionare una novità di PBR che arriva presto, molto presto. Mamma che novità. Oh, mamma che roba. quelli di Pane, Burro e Rock and Roll già se la sono presa coi Beatles. Ehi Giuditta, non aver paura. Ah, quindi erano i famosi Beatles in italiano. Già se l'erano presa con i Led Zeppelin. Ah, quelli erano i Led Zeppelin col kazoo. E adesso se la prendono con gli AC/DC. Ah, questi erano gli AC/DC originali. Sì, ma venerdì glieli facciamo con la bocca. Accidenti. Maestro, la pillola. No, è che una zampa del tavolo mi è finito sull'alluce. A volte ci vogliono anni, decenni, per diventare un bravo musicista rock. A volte non ci vuole proprio niente. La casa di cura Eleonora Duse vi offre il primo corso per musicisti rock con la bocca. Con la bocca. Qual è il tuo strumento? Il mio è la batteria, senti qua. Invece il mio è la chitarra. Il mio è il basso. È facile diventare un musicista rock con la bocca. Non esitare, invia subito un SMS per il tuo provino gratuito al 335 100 7777, con la scritta musica rock con la bocca. Sì, non perdere l'occasione di riscrivere la storia del rock con la bocca. Semplice, facile e veloce. Non esitare.